1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ehi, giornali, giornali, è una bella frase oggi, leggere i giornali, è bello, è bello. In realtà oggi ci sono in edicola, troverete non moltissimi giornali perché c'è uno sciopero dei poligrafici, per cui la maggior parte dei quotidiani oggi non c'è. E allora io che ti ho pensato? A parte che alcuni quotidiani ci sono, io per esempio ho Libero, ho Il Giornale, ho Il Fatto Quotidiano, ho Il Tempo davanti a me, ho un paio di giornali sportivi, anche il Corriere dello Sport e Tutto Sport. Ma che ti ho pensato? Ho pensato che in questi casi bisogna unire le forze, bisogna stare tutti insieme, a cominciare da voi ascoltatori. E dunque oggi sperimentiamo questa cosa nuova, una rassegna stampa nella quale anche voi potete dire la vostra. 800 24 0024 è il numero per telefonarci in questo momento in diretta. Di che volete parlare? Potete parlare del terrorismo, per esempio. Molti articoli sono declinati oggi sull'Italia. Allora, siamo pronti secondo voi a convivere anche in un mondo, in una società in cui possiamo aspettarci prima o poi un attentato terroristico? Siamo pronti? Vi sentite pronti? No, non ci si può sentire pronti, capisco che la domanda è un po' assurda, ma insomma dobbiamo fare i conti con questa realtà, anche perché alcuni articoli raccontano bene che poi la minaccia non è così lontana. Volete intervenire dunque su questo, sull'ISIS, sulle vostre paure? Fatelo. Volete parlare delle amministrative? Sapete che a Roma forse Bertolaso ora dice convergerò su Marchini. Ah, i primi segnali di resa di Bertolaso. C'è la polemica per quello che ha travolto Virginia Raggi, le polemiche sulla Acea a Roma. Volete parlarci di che cosa? Volete parlare del fatto che arrivano più tasse sulle sigarette? Aumentano le tasse, si rischia e si raschia sempre lì il barile, no? Le sigarette. E poi attenzione, perché la BCE forse ha fatto capire in maniera chiara che ci vorrà una manovra bis in Italia. Quindi volete parlarci di questo, di tasse? Volete parlarci della morte di Johan Cruyff? Magari siete appassionati di calcio. Fate anche questo e chiamateci. 800 24 0024. Dai, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È vero, è vero. Ha ragione padre Livio Fanzaga. Allora, come detto, io devo unire le forze. Ah, ho anche il foglio, non mi sono dimenticato il foglio che ho qui davanti. Devo unire le forze. Allora, in questa rassegna stampa aperta agli ascoltatori, 800 24 0024, è anche aperta a due colleghi, due amici, Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come saluto Veronica Gentili, la nostra Veronica Gentili, collaboratrice tra l'altro del Fatto Quotidiano. Buongiorno Veronica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io leggo intanto i titoli dei quotidiani che ho qui. Come detto, Il Giornale, nella tana delle belve. Libero, la rete italiana di Salah, questo è il titolo ovviamente principale, eh? Mentre il Fatto Quotidiano, 5 killer, 50.000 euro per fare 31 morti e 4 miliardi di danni, eh? La guerra asimmetrica, questo fa capire con alcune cifre. Il Tempo invece titola non c'è più religione. Io però proprio da questi articoli che mi hanno abbastanza inquietato vorrei partire, e cioè, come detto, Libero fa questa inchiesta con Giacomo Amadori dal titolo Una rete tra l'Italia e Bruxelles, cioè si racconta per esempio della storia. Ricordate l'attentato del treno Parigi-Amsterdam con un uomo, Ayub El Kazzani, che era salito, aveva coltellato alcune persone, poi è stato fermato e neutralizzato da alcuni passeggeri. E beh, si scopre per questa inchiesta di Giacomo Amadori che questo Ayub El Kazzani ha avuto diversi contatti con una persona che viveva a Cosenza e che poi in qualche modo è sparita in Belgio. È sparita in Belgio, era ovviamente controllata dagli investigatori della Digos di Cosenza, si chiama Khalil, non si sa molto di più, è stato in Puglia, in Campania, in Spagna, si è trasferito poi in Belgio e di lui si sono perse le tracce. Ma così come allo stesso telefonino a cui si riferiva questo terrorista del Parigi Amsterdam, si riferì anche un rapper bresciano, Anas Abubi, in vista di un arruolamento nell'esercito del califfo. Questo racconta Libero, mentre cosa racconta il Fatto Quotidiano con Davide Milosa? Pagina 6, racconta che da Lonate Pozzolo, provincia di Varese, 2 anni fa partì il primo caso accertato di kamikaze che è andato a farsi esplodere in Siria. Si tratta di un tunisino di 47 anni, Sami, il cognome non è specificato, si è radicalizzato con un lungo percorso di qualche anno con la frequentazione della moschea e poi appunto ha lasciato Lonate Pozzolo, e Davide Milosa lo racconta molto bene sul Fatto Quotidiano, per andare a esplodersi, a farsi esplodere in Iraq. Allora, Massimo, il problema è questo, perché poi voi vi siete concentrati anche sulle cosiddette Molenbeek italiane. Molenbeek è questo paesone di Bruxelles, enclave davvero musulmana molto massiccia, a Milano, a Torino, a Bologna, nelle grandi città italiane. Scopriamo adesso che sono tra noi, adesso senza fare allarmismi, ma alcuni radicalisti sono tra noi. No, non lo scopriamo adesso, ovviamente ci sono stati gli arresti, anche degli arresti e delle espulsioni di recente in Italia, però dopo quello che è successo in Francia prima, in Belgio poi, e soprattutto dopo che abbiamo scoperto come impunemente possono agire in certi contesti, come appunto quello belga in particolare, mi è sembrato naturale sin da ieri cominciare a rapportare la situazione belga a quella italiana, vedere se ci sono similitudini, dove ci sono e soprattutto dove ci sono i pericoli, perché dagli errori altrui e nostri bisogna imparare. Allora, bisogna imparare. Molenbeek però, è però fare che cosa? Cioè, la domanda è fare che cosa? Perché controllare questo, sì, certo, controllare. Intanto bisogna vedere, prima di dire cosa fare, bisogna vedere com'è la situazione e vedere se anche noi stiamo creando alcune situazioni potenzialmente pericolose. E questo è il compito di un giornale, più che cosa fare, è fotografare una situazione. Questo stiamo facendo, abbiamo fatto e stiamo facendo. Poi appunto dimostrare attraverso un'inchiesta che, cioè, non è così peregrino che in una situazione come quella europea una rete di questo tipo possa allungare i tentacoli anche, sì, da noi. E abbiamo, con il giornale di oggi, provato che dei contatti diretti tra alcuni personaggi che vivevano in Italia o che vivono, perché il marocchino di cui parlavi prima di Cosenza, sì, adesso è sparito in Belgio. Poi noi ricostruiamo anche i contatti che una libica che è stata arrestata a Palermo e inopinatamente liberata, messa sul controllo domiciliare da un jeep, su cui poi c'è la procura che sta ricorrendo addirittura alla Cassazione perché convinta dalle intercettazioni della pericolosità di questa persona e la vuole in carcere a tutti i costi, e invece c'è un giudice di indagini preliminari che dice che non è necessario. Insomma, quello che stiamo facendo è dire attenzione, non abbiamo Molenbeek probabilmente in Italia, però potrebbe arrivare solo per questione di tempo, nel senso che il timore, se riusciamo il timore a stratificare come è successo in Belgio, potremmo averle, e forse è il caso di intervenire prima. Ecco, intervenire come? Questo è uno dei temi. Veronica Gentili, qui ti faccio sentire Massimo D'Alema. Massimo D'Alema, che ieri è intervenuto a Radio Anch'io, è stato anche criticato oggi su Libero, ovviamente dicono no, è una ricetta sbagliata, ma insomma, Massimo D'Alema propone che cosa? Sentiamolo. Io vorrei che queste persone si sentissero a tutti gli effetti cittadini europei. Preferirei che potessero costruire le loro moschee come si costruiscono le chiese, cioè con il denaro pubblico. In Italia c'è l'8 per 1000 per la Chiesa cattolica, ma c'è 1,5 milioni di musulmani che non sono riconosciuti. L'8 per 1000 per, come per la Chiesa cattolica, anche per le moschee, Veronica. Questo è un tema molto dibattuto. Cioè, io la trovo una proposta molto intelligente, molto mirata, nel senso, poi non fa mai piacere quando D'Alema dice qualcosa di intelligente riconoscerglielo, si sa, perché data la sua notoria antipatia nessuno è contento di dire beh effettivamente è una cosa, però io credo che per una serie di ragioni sia invece una proposta molto sensata, innanzitutto simbolicamente. Poi si può entrare nel merito dell'8 per 1000 in assoluto, sulla laicità dello Stato, sul fatto che l'8 per 1000 venga dato alla Chiesa cattolica, e tutto questo è un'altra discussione, ma dando per assodato che l'8 per 1000 esiste in particolar modo in Italia, che ha dei rapporti di un certo tipo con la Chiesa, sì, secondo me non verrà smantellato. Allora, è necessario, secondo me, pensare un discorso di questo tipo, perché secondo me c'è un fraintendimento di fondo. Quando si parla di integrazione, quando si parla di accoglienza, quando si parla di far in qualche modo di integrare questa comunità affinché non si creino quegli spazi vuoti in cui si può infilare il radicalismo. Dici, allora se la dobbiamo integrare, integriamola con tutti i crismi. No, ma penso anche, non è soltanto un fatto, no, come siamo buoni, come siamo cari, e quindi parte tutta la retorica dei buonisti, voi non avete capito niente. Qui secondo me c'è proprio un problema di fondo dettato anche dall'ignoranza, proprio nel senso etimologico della parola, senza nessuna tratto di offesa. Cioè, sì. Qui c'è realmente un problema di integrazione profondo, e non si risolve il problema di un sedicente Stato facendo la guerra. Primo, perché la guerra non è localizzabile, quindi ci sono stati l'Iraq e la Siria, per esempio. Una delle cose importanti che ha fatto al-Baghdadi è stata quella di non chiamarlo più ISIS, cioè Iraq e Siria, sì, le prime due lettere dell'acronimo sono state tolte, è diventato IS, Stato Islamico. Quindi anche l'idea che si possa fare una guerra in loco, sì, È molto bizzarra, peregrina. Però il tema sulla questione dell'8 per 1000, devo andare un attimo in pubblicità, è interessante. È chiaro che messa così può apparire, non dico quasi una provocazione, ma un qualcosa di molto forte. Infatti oggi Maurizio Belpietro su Libero critica, fate l'editoriale, lo chiamate Massimo d'Arabia. Però la questione è, e vorrei coinvolgere anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, vogliamo regolarizzarle queste posizioni, oppure vogliamo lasciare tutto così alla Molenbeek, giusto per usare un termine che è entrato nell'uso comune? E poi però non dobbiamo lamentarci se in questa irregolarità, in questa sorta di ghettizzazione, c'è anche poi il rischio di qualche radicalizzazione. Ecco, ripartiamo da qui dopo la pubblicità. Prima, siccome è il momento, questo sempre, in cui do l'articolo e il premio, mani sul volante per l'articolo che mi fa pinzare della giornata, eccolo qui oggi sul tempo. Visto che si parla di terrorismo, ma arriva la festa, i deputati si regalano un giorno di ferie in più. Ieri sono state annullate tutte le commissioni che erano già state convocate. Questo sul tempo, la sorpresa di Pasqua dei parlamentari. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Tanti auguri Milan, che te pozzino via fuoco, ciao! Gli auguri del nostro Angelino. Allora, questa è una rassegna stampa particolare, come detto, perché non ci sono molti giornali in edicola, c'è uno sciopero dei poligrafici, ce ne sono alcuni di quotidiani: Libero, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Tempo. E siamo qui con gli ascoltatori, che ci possono chiamare all'800 24 00 24, e due ospiti: Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Tra l'altro, Massimo, parlavamo appunto di D'Alema. Per Veronica Gentili è giusta la proposta di D'Alema dell'8 per 1000, quindi soldi pubblici anche per le moschee, regolarizziamoli. Perché invece per voi è Massimo d'Arabia? Dunque, capisco il punto di chi dice sì, se noi facciamo una cosa del genere lì teniamo un po' più sotto controllo. Le obiezioni sono di vario tipo. La prima, in questo momento pare più una provocazione che una vera, sì, una vera proposta. Il momento, però bisogna avere il coraggio di fare le provocazioni. Nel momento soprattutto, non sarebbe D'Alema, giustamente. Nel momento soprattutto in cui si ricorda che nei paesi islamici non solo non ti danno l'8 per 1000, ma non te la lasciano neanche costruire una chiesa, chiaro, non ti lasciano neanche peccare. Ma soprattutto, appunto, facendo questo giro che stiamo facendo, questo paragone, queste cose, questo viaggio nel ventre molle dell'Europa che è il Belgio, scopriamo che sono stati inondati di soldi quei quartieri lì, anche in Francia. Addirittura in Francia ci sono state delle proteste da parte dei quartieri disagiati, parimenti disagiati, frequentati però abitati da autoctoni. Da locali, diciamo, da autoctoni, sì. Da autoctoni, da francesi, che non hanno avuto tutti i soldi che hanno avuto i quartieri islamici. E quindi la soluzione non può essere solo può, economica, può apparire, pagarli, perché non è lì il problema. Ma poi ce ne sono altre obiezioni. Molta della radicalizzazione adesso viene fatta via internet, quindi anche il arriviamo già in ritardo nel controllo delle moschee, questi sono già oltre. Diciamo che una soluzione non è facile, però certo la provocazione, posso, la provocazione che, la Che posso che fornire un ulteriore elemento anche agli ascoltatori che poi telefoneranno. L'ulteriore obiezione che io faccio è che l'Islam è molto particolare come religione rispetto anche alle altre religioni, anche per una questione della gerarchizzazione della cosa. Tu non sai neanche a chi vai a dare poi alla fine i soldi. No, è chiaro, non c'è una struttura come la religione cattolica. Esatto, non c'è una struttura come la Chiesa cattolica. Vorrei sentire Marco da Roma che ci chiama. Buongiorno Marco. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Io penso che sia una proposta intelligente questa di Italia invece. Ha una condizione però, che se parla la lingua dello Stato dove si è, quindi se parla in italiano, è inutile parlare in altro, che non capisce nessuno, neanche i marocchini o la gente dell'Africa. E poi vorrei aggiungere come contrattare per questi crimini efferati però la legge marziale. Qui siamo in guerra, quindi integriamo sì come facevano gli antichi romani. La però, legge marziale. La legge marziale, per esempio, legge marziale. Non è inutile fare un processo. Sì, però queste sono diciamo risposte, se vuole, la legge marziale opinabile. Io non sono d'accordo, però Marco è una risposta che arriva dopo, non è preventiva, ecco, la legge marziale andrebbe però bisogna dirlo a monte, bisogna dirlo prima. A questo punto si deve fare un decreto legge, evidentemente. Questa è la sua proposta. Marco, la ringraziamo. Sentirei Paolo dalla provincia di Brescia. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno Milan. Io ascolto sempre con piacere la sua trasmissione finché non spengo. le voglio dire, a me fa piacere, io lavoro da tanti anni col mondo arabo musulmano e ho un grande rispetto. Però mi aspetterei da chi fa informazione, non dico dai politici, perché noi abbiamo un analfabetismo della politica, cioè come il medico che va da lei, le dà una cura, però non ha studiato bene la medicina. Per cui, siccome siamo tutti a rischio della nostra pelle, i nostri figli, vi discorrendo, vorrei che almeno qualcuno di voi questo Corano, 9,90 € l'Estelunga tradotto, l'abbiano sfogliato. È legittimo chiederlo, no? Cioè, D'Alema dà una ricetta, ma non sa di cosa sta parlando, perché lui è troppo impegnato con cose internazionali pagate dai cittadini italiani. Allora, dice, bisognerebbe partire leggendo il Corano. Sì, le voglio dire, no? Se già non c'è integrazione tra loro, tra l'uomo e la donna, seconda sura, versetto 228, le prime pagine, l'uomo e la donna sono uguali, la donna un grado in meno. Io mi sta bene, però o partiamo dalla base culturale, loro si formano, da dove loro formano il processo escatologico e tutto quello che c'è, oppure lasciamo stare. Vabbè, però parliamo delle tasse. Sì, vabbè, ma adesso non ci lega il Corano in diretta, sennò poi ci toglie il gusto di andare a comprarlo e leggerlo. Paolo, quello che volevo dire è che c'è anche un dibattito se la religione conti e quanto conti, perché Veronica, su questo so che magari noi la pensiamo diversamente. Secondo me conta. Per molti dici, ma no, è un pretesto ideologico, non hanno nulla a che vedere con la religione. Non sono convinta che conti molto poco, non a caso poco. Conta molto poco, perché generazionalmente è una leva che va tra i 20, 25 e i 35 anni, che anzi ha proprio una specie di rigurgito nei confronti della generazione precedente, che invece è una generazione molto più ritualistica, molto più legata a una religione islamica tradizionale, per cui molto spesso la religione in quanto tale non ha un grande valore. Leggevo delle testimonianze molto interessanti sui delusi da quelli che erano tornati in Iraq a combattere, pensando che finalmente ci fosse una laicizzazione dell'Islam e che fosse finalmente possibile pensare ad un'autonomia dall'Occidente, che poi sono tornati invece indietro e molti sono diventati poi profughi, sono venuti qui, hanno chiesto il diritto d'asilo qui, non in Italia. Ma questo è il dibattito, Svezia. Quanto c'entra oppure no? Parlano di un aspetto politico-sociale che è determinante, cioè loro promettono, sono i primi a parlare di uno stato sociale, che è una cosa che non è mai stata nominata in nessuna delle dittature a cui loro sono però abituati. Sarà un'ideologia un'ideologia, sarà un'ideologia, però quando quello che è in fuga viene intercettato a dire sono qui per sterminare i nemici di Allah e miscredenti, voglio dire, non ce lo inventiamo noi, però insomma il dibattito... No, questo è evidente, però se viene letto come tale e viene letto come un manifesto senza guardare oltre, è sempre il solito discorso, non c'è nessuna strategia, se non c'è un processo cognitivo profondo di quello che accade, non c'è strategia. Allora, si limita a pensare che sia un discorso di religione, e secondo me così, se non si fa realmente un'analisi più profonda di che cosa passa in queste teste, il fatto per esempio che non esistano i padri, le figure dei genitori non ci sono, ci sono soltanto fratelli e amici di infanzia, è una nuova generazione che si struttura orizzontalmente ed è veramente un rigurgito nei confronti dei sacrifici fatti dalle mamme e dai padri che invece hanno vissuto della cultura occidentale e che loro sentono come perdenti perché si sono piegati. Fatemi segnalare questi due articoli, poi parliamo d'altro, purtroppo il tempo corre, ma volevo mettere anche altra carne al fuoco. Allora, due articoli che riguardano questo avvocato che difende Salah Abdeslam, Sven Mari, che è un avvocato che difende tanti criminali. Oggi vi segnalo Enrico Fierro sul Fatto Quotidiano, pagina 4, la pedina Abdeslam tra l'avvocato Stare e i segreti dei terroristi. In questo articolo Enrico Fierro addirittura parla dei possibili, di tutti i lati oscuri di questo arresto. Per esempio, è strano blitz quello dove in cui è stato arrestato Salah Abdeslam, era in trappola, l'edificio circondato, a un certo punto lui tenta una fuga con una felpa bianca, scappa da un portone, gli sparano pochi colpi e soprattutto, fanno notare molti, quando viene portato alla macchina zoppica ma non sanguina, misteri. Qualcuno addirittura azzarda l'ipotesi che la sua cattura sia stata in qualche modo concordata e sia stata fatta una messa in scena di ultimo blitz. Addirittura siamo a questo. Ma comunque questo avvocato che lo difende è un avvocato abbastanza inquietante, no? L'avvocato del diavolo che odora di zolfo, così lo definisce anche il giornale con Giuseppe Marino. Ma dopo il traffico voglio andare a questioni romane, amministrative, perché Bertolaso, questo almeno titola Libero, a pagina 14, è pronto a una svolta, potrei convergere su Marchini. Ma che succede nel centrodestra a Roma, tra poco? Massima di Confucio, ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il vostro. Alessandro Mila, il conduttore così morbido, che si taglia con un grissino. Vabbè, Massimo De Manzoni, sorvoliamo su questa. Allora, Bertolaso, perché titolate che potrebbe convergere su Marchini? Per me è una storia già scritta, cioè così succederà, cioè che Bertolaso si ritira, ma non è tutto un teatrino clamoroso? Ti rispondo tra un secondo, prima posso fare un passo indietro e dire che secondo me è proprio il ragionamento che si faceva prima della mancanza dei padri in questa storia conduce proprio alla conclusione opposta, a mio parere, giusto per fornire le due versioni agli ascoltatori, cioè che la radicalizzazione dei giovani islamici di seconda generazione avviene proprio per quello, non hanno più un punto di riferimento familiare o lo rifiutano, perché rifiutano il modello, e si radicalizzano contro l'Occidente. Chiusa la questione. Quello che diciamo oggi di Bertolaso è un'indiscrezione di buona fonte, dell'entourage di Bertolaso, captata dal nostro Salvatore Dama ieri sera tardi. Infatti, come vedrai nell'articolo, la cosa non è particolarmente approfondita perché non c'è stato però abbiamo raccolto questa indiscrezione che, come dici tu, non ha un senso, nel senso che... Ma sì, perché i sondaggi lo danno, credo, sotto il 10% addirittura. In questi giorni è più o meno un delirio quello che è successo a Roma nel centro-destra in questi giorni, in cui si fa fatica a fare la classifica di chi ha sbagliato di più. È ovvio che con quattro candidati che pescano nella stessa area, sono tutti e quattro destinati a andare a schiantarsi, a spalancare le porte del ballottaggio agli avversari, e è ovvio che la lotta vera in questo momento è tra Berlusconi e Bertolaso da una parte, Lega Fratelli d'Italia da quell'altra. Infatti Bertolaso comincia a capire che non ha nessuna voglia di andare a bruciarsi, a schiantarsi. lo dice anche nel nostro pezzo, tra un virgolettato a lui attribuito, non ho nessuna voglia di andare a Cantan, capisce che bisogna sbloccare la situazione. Sì, per vincere, è chiaro che se si vuole vincere, il centrodestra se vuole vincere deve... Se la Meloni non ha voluto, quindi... Deve convergere su qualcun altro. In contrapposizione. No, ma è chiaro, o converge su Marchini oppure Bertolaso non è proprio il cavallo di razza per vincere Roma. Veronica, vabbè, ma tu tanto sei una comunistona, quindi non... Che ti frega. Ma poi che mi frega, perché mi sembra che qui l'unico problema che non c'è a Roma in queste elezioni siano Bertolaso e Marchini, insomma. Direi che tra tutti i problemi che si... cioè, nello scenario ci sono già un po' così... si sono esclusi, come dire... Marchini non autoescluso, ma purtroppo secondo me si è giocato la sua partita, purtroppo per lui, non per noi, si è giocato molto male la sua partita, perché c'è stato un momento in cui c'era un vuoto vero intorno e se lui si fosse mosso meglio poteva raccogliere più consensi attorno a sé e magari essere sostenuto. Adesso la candidatura di Bertolaso, l'abbiamo, insomma, se ne parlava anche l'altra volta, sì. Secondo me è una candidatura così totalmente... simbolica, cioè adesso simbolica, forse converge su altro, ma simbolica, però fino a questo simbolica, punto Berlusconi, no, perché leggi il giornale tanto... ma nonostante l'indiscrezione di Libero, vedi sul giornale ancora invece il titolo di oggi è Berlusconi non arretra nessun ticket con Marchini, quindi simbolica in questo senso, cioè Berlusconi il suo problema non è sicuramente vincere le elezioni a Roma, direi che tra tutti i problemi che c'ha in questo momento anche buoni, nel senso questioni economiche di cui occuparsi, non è il momento per smuovere troppo le acque. Intanto segnalo questo, che sia il Fatto Quotidiano che il Giornale che il Libero, insomma, si torna su questa vicenda che riguarda Virginia Raggi. Ieri c'è stato un attacco durissimo del Messaggero a Virginia Raggi, dicendo, per le parole che ha detto in un'intervista a Sky, l'ACEA ha detto cambierei il management se fossi sindaco, l'ACEA ha perso il 4,73% in un giorno, e quindi il Messaggero ha attaccato dicendo ha fatto perdere 71 milioni di euro al comune nel quale poi vuole diventare sindaco, perché la CEA è partecipata dal comune. C'è da dire che azionista della CEA il 15,8%, come racconta il Fatto Quotidiano, è anche il Caltagirone, che edita il Messaggero e che ha scritto questo articolo molto duro. Però capite che all'interno di questa campagna elettorale si sente davvero di tutto. ACEA, Caltagirone spara sulla Raggi e il PD si accoda, questo è il titolo di Luca De Carolis e la cronaca di quella che è una campagna elettorale senza esclusione di colpi sul Fatto Quotidiano. Però attenzione, qua abbiamo una fumatrice, Veronica Gentili, abbiamo non so, Massimo, tu fumi? No, ho smesso. Perché come racconta Libero, Claudio Antonelli, alla fine la scelta di far ricadere sulla solita questione, aumentano i pacchetti cosiddetti low cost, Veronica, quelli sui 4 euro, low cost. Smetteremo di fumare. Ma no, non è vero, perché giocano su quello, che il vizio è difficile da debellare, e quindi arrivano le tasse, raschiano il barile, altre tasse sulle sigarette, titola Libero a pagina 13, per l'articolo in prima pagina. Devo dire però, perché questo siamo per disincentivare noi i mozziconi di sigarette, le sigarette che i non famosi, sappiamo, ma perché tu li butti, polemica, no? li butti ancora per terra? No, ho smesso, sai, da quando ci siamo accordati noi ho smesso. Sì, che usi la mia lingua per spegnere i mozziconi, certo. Questa è la versione di Veronica Gentili. Questo è il nostro accordo, ci siamo messi d'accordo così, io il problema non ce l'ho più. E quante ne fumi al giorno, giusto per capire? No, ma io fumo molto poco, fumo soltanto dopo cena. La mia lingua, allora sì. Poi se la serata è lunga, capito, basta che ti fai trovare dopo così, dalle 9:30 a 10, io mi fumo qualche sigaretta. Non vogliamo poi... ulteriori particolari, diciamo così. Allora, no, io vi devo salutare, detto che Mauro Meazza, dove è finito Mauro Meazza? Mauro Meazza non c'è, perché oggi il Sole 24 Ore non c'è, come ho detto, molti quotidiani che sono in sciopero per lo sciopero dei poligrafici. No, nel ringraziare Veronica Gentili, nel ringraziare Massimo De Manzoni, però devo dare anche qui la carta costa, e mi spiace, caro Massimo, l'ho trovato su Libero, proprio come sempre faccio l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince invece, a mio insindacabile giudizio, come sempre, Carlo Cambi con La Pasqua fatta in casa. Volete la Pasqua fatta in casa? Potete farvi una carbonara di mare, uno strudel di verdure, l'agnello con le patate. Ma chi se ne frega?